Nader, che oggi è in corsa per la presidenza degli Stati Uniti, in poche parole dagli anni 60 in poi è stato la voce critica degli Stati Uniti. Ha fondato l'Unione Consumatori, ha lottato contro il malaffare dell'industria, ha denunciato General Motors, ad esempio, tra i tanti denunciati come costruttore di macchine poco sicure e via dicendo. È entrato poi a pieno titolo nel Partito dei Verdi, poiché da sempre Nader è anche uno strenuo difensore dell'ambiente, ha deciso nel 1996 di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. Oggi è al suo terzo tentativo come indipendente. Nel 2000, nelle ultime elezioni presidenziali, ha ottenuto circa 4 milioni di voti. Ho potuto rivolgergli alcune domande, come ho detto, grazie al suo instancabile portavoce Kevin Zis, che è un giornalista cresciuto alla scuola di Cronkite e oggi portavoce e stretto collaboratore di Ralph Nader. Quello che io personalmente ammiro in Ralph Nader è il coraggio di criticare attualmente le politiche di Bush, portando non argomenti balbettanti ma piuttosto dei punti concreti. E per un uomo come Nader, che non ha mai amato le lobbies, naturalmente non c'è possibilità di comunicazione con quella che è l'attuale lobby al governo, che è una lobby del petrolio, che sostiene sia Bush che Cheney, che peraltro è il proprietario dell'Halliburton, che sta facendo miliardi su miliardi con la ricostruzione dell'Iraq. Non ama tuttavia Ralph Nader, non ama neppure John Kerry, l'altro candidato per il Partito Democratico, perché, e infatti ne facendo nell'intervista, Kerry non sarebbe in fondo che un Bush meno rozzo e un po' più civilizzato, ma nonostante l'aria da gentiluomo gli sta bene la guerra, non si preoccupa troppo per la perdita delle libertà costituzionali imposte dal famigerato Patriot Act. E lo scorso 13 maggio, subito dopo la rivelazione delle torture avvenute ad Abu Ghraib, Nader ha scritto una lettera a Bush dicendogli che sarebbe giunta l'ora di smetterla con le menzogne, soprattutto per quelle che riguardano la tortura. Ha poi aspramente criticato l'indifferenza assoluta di George Bush nei confronti degli appelli della Croce Rossa Internazionale. Se Nader, cosa alquanto improbabile, va forse premesso, venisse eletto, uno dei suoi propositi è quello di impegnarsi soprattutto a favore dei 45 milioni di americani che ancora oggi non usufruiscono di alcuna forma di assistenza medica. E il ruolo di Nader del resto è sempre stato quello del crociato, del Robin Hood a favore dei diseredati. A tratti le sue crociate, soprattutto quando non erano sostenute da alcuna precisa ideologia, mi sono sembrate un po' piccaresche, ma sarei tuttavia pronta a scommettere sull'onestà intellettuale del personaggio. Non so naturalmente se l'onestà intellettuale sia sufficiente per fare il Presidente degli Stati Uniti. Per una volta vorrei cullarmi e vorrei che tutti ci cullassimo nell'utopia che in questa famosa stanza ovale possa andare per una volta un uomo che non ha almeno nessun morto sulla coscienza. Bianca Cerri per Reporter Associati e per Abisnet.